Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Una volta c'erano il telelavoro e la formazione a distanza. Oggi ci sono lo smart working e quello di cui vogliamo parlare questa sera, che potremmo definire smart learning. A parte l'abuso del termine smart, per cui chiedo a me da solo, il passaggio dall'italiano all'inglese non è pura, diciamo, esterofilia, ma piuttosto c'è l'idea che oggi la flessibilità sia delle modalità di lavoro sia di studio riguardi non solo e non tanto il luogo, ma anche e soprattutto il tempo in cui si lavora, in cui si studia. In gioco c'è la possibilità di conciliare lavoro e vita privata, ma anche lavoro e studio. Federico Frattini è professore della School of Management del Politecnico di Milano, dove ora stanno dedicando molta attenzione a capire come le nuove tecnologie stiano trasformando radicalmente il mondo della formazione. Va da sé che è una cosa che al Politecnico e alla School of Management interessa molto da vicino. E naturalmente Federico Frattini è in linea con noi. Buonasera Frattini. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Dunque, voi avete identificato, diciamo, in questa vostra ricerca due mega trend, potremmo dire così. Il primo, che è quello di cui vogliamo occuparci stasera, diciamo, ha una parola chiave che è MOOCs. Di che cosa si tratta? MOOCs sta per Massive Online Open Courses. Si tratta di corsi che vengono erogati in modalità online, appunto, e che sostanzialmente permettono di fruire da qualsiasi luogo del mondo contenuti messi a punto da professori delle più importanti università, appunto, del mondo. Ecco, perché sono queste che stanno producendo questi contenuti e li stanno mettendo in rete, no? Sicuramente il fenomeno è nato all'inizio del 2012 e ad oggi sono stati lanciati più di 1200 MOOCs da parte di oltre 300 università che vogliono usare queste piattaforme come una vetrina per i loro contenuti, per i loro docenti e per i loro progetti di ricerca. Quanti sono, diciamo, gli utenti di queste piattaforme? Ma ad oggi si stima che poco meno di 7 milioni di studenti siano iscritti a questi MOOCs. Le piattaforme più note sono edX, che è stata creata da Harvard, MIT e Stanford, Coursera, che eroga quasi il 47% di tutti i MOOCs ad oggi disponibili sulla rete. Questi MOOCs sono dei corsi che hanno mediamente una durata di alcune settimane e contemporaneamente sono seguiti da decine di migliaia di studenti. Ci sono però delle traiettorie di sviluppo e di innovazione interessanti, come ad esempio le cosiddette piattaforme di microlearning, in cui un singolo corso MOOCs viene spezzettato in tanti piccoli momenti formativi, sì, di lunghezza, di durata anche di alcuni minuti, che possono essere composti insieme in un'esperienza formativa, in un microcorso della durata di 1 o 2 ore. Ad esempio CourseMoss è un'impresa russa che ha creato delle app attraverso cui è possibile accedere a questi microcorsi in modo assolutamente personalizzato e anche produrli. Ecco, tra l'altro non li producono solo professori universitari, no? Anche professionisti, insomma, c'è un mondo dietro. Queste tecnologie, queste piattaforme abilitano una forma di apprendimento che potremmo chiamare di peer-to-peer learning. Non è più solamente la faculty delle business school o delle università a produrre contenuti formativi, ma usando queste piattaforme anche attraverso un telefonino, uno smartphone, chiunque può mettere a disposizione degli altri la sua esperienza e la sua professionalità producendo un microcorso e condividendolo. Quindi, con i suoi contatti. Quindi per esempio anche uno strumento adatto a cosiddetto knowledge management dentro all'interno delle aziende. Immaginiamo poi di voler valutare la preparazione di queste persone, ammesso che sia necessario, secondo me in molti casi è del tutto inutile, ma ammesso di volerlo fare, poi c'è modo di farlo? Bisogna considerare che molte persone seguono questi MOOCs o corsi online sostanzialmente per un interesse individuale, quindi non richiedono un certificato di accomplishment, però è possibile per chi lo desidera sostenere una valutazione alla fine del corso ed esistono dei sistemi molto avanzati che consentono di verificare il rischio di plagiarismo nell'eseguire i test di questi corsi. Ci si sta lavorando, esistono delle soluzioni tecniche che permettono di risolverlo. Ecco, a proposito di lavorare, c'è anche uno sviluppo di business dietro a queste piattaforme, insomma? Assolutamente sì, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di queste tecnologie, di queste piattaforme all'interno delle organizzazioni come strumenti per mettere a sistema e condividere le competenze dei membri di queste organizzazioni, dei dipendenti di queste imprese. Il knowledge management, cosiddetto appunto aziendale. Allora, grazie Federico Frattini, ci risentiamo dopo domani perché parliamo dell'altro megatrend che è legato strettamente alla formazione dei manager. Grazie, buona serata. A domani.